Viaggiatori, mi avete liberato dall'incantesimo che mi imprigionava. Vi ringrazio infinitamente. Ora però non c'è tempo da perdere. La chiave della Terra è in grave pericolo. Per aiutarvi nella vostra missione, vi affiderò un indizio che vi condurrà a essa, prima che cada nelle mani sbagliate.